America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. Somebody That I Used To Know, Gotti, il cantante che ha vinto la migliore incisione dell'anno domenica notte. Da Los Angeles, allo Staples Center, i Grammys Award, i premi per le migliori canzoni del 2012. Beh, devo dire, è stata una settimana intensa, musica da una parte ma moda dall'altra. A New York c'è stata la settimana della moda, sappiamo poi come moda e musica vanno a braccetto. Sul fronte moda, beh, devo dire, tutti grandi, decine e decine di sfilate, Marc Jacobs, Ralph Lauren, Donna Karan, Calvin Klein, Michael Kors, c'erano anche degli italiani, Diesel per esempio, ma c'era anche Moncler, che ha organizzato un evento, devo dire, molto suggestivo al Gotham. Questo Gotham Building è una vecchia banca, una di queste grandi banche costruite come dei templi neoclassici e poi fallite negli anni 20, ma sono rimaste queste strutture meravigliose. Ecco, e Moncler ha costruito una specie, immaginate un colosseo, con quella che ha definito una foresta umana, con 350-400 modelli e modelle, tutti in cerchio, allineati, davvero molto impressionante, con una musica molto interessante, molto forte. Bene, perché vi parlo di Moncler? Perché ieri a New York c'è stato un evento piuttosto interessante in cui si è parlato di investimenti americani in Italia. Gli investimenti americani in Italia sono ai livelli minimi, siamo al 26esimo posto, pensate, nella classifica mondiale. Questo evento è stato organizzato dall'Italian Business and Investment Initiative, un'organizzazione fondata da Fernando Napolitano, che è arrivato qui a New York qualche tempo fa e ha deciso così di creare questo corridoio tra Italia e Stati Uniti per cercare di promuovere l'investimento. C'era un parterre non male: il ministro Vittorio Grilli, l'ex presidente del Consiglio Giuliano Amato, l'amministratore delegato dell'ENI Paolo Scaroni, dell'Enel Fulvio Conti, Ragnetti di Alitalia, Ibarra di Wind, l'ambasciatore David Thorne, l'ambasciatore americano a Roma. Risultato? Risultato, devo dire, abbiamo spesso dei consessi di questo genere e alla fine si conclude sempre la stessa cosa, e cioè che l'Italia si deve riformare. L'Italia è chiusa, l'Italia non attira investimenti esteri. L'ambasciatore Torno in particolare è stato piuttosto duro. Ha semplicemente citato delle cifre: siamo al 73esimo posto in una classifica stilata dall'OCSE, che così valuta quali sono le condizioni di apertura di un paese. Siamo, che ne so, dietro l'Azerbaigian. E dunque di questo si è parlato ieri. Si è cercato da una parte di rassicurare gli americani presenti che l'Italia molti passi in avanti li ha già fatti, le riforme strutturali sono state portate avanti, il ministro Grilli ha detto si continuerà lungo questa strada al di là di come andranno le elezioni, e dall'altra però ci si è dovuti rendere conto che molti degli americani nel pubblico, insomma, indicavano quelli che sono i nostri problemi. Detto questo, ci sono delle operazioni di investimenti di capitale americani in Italia. Per esempio, la General Electric ha comprato l'Avio, lo stesso ambasciatore Thorne ha ricordato che BlackRock adesso è il secondo principale azionista dentro UniCredit. Dunque ci sono dei flussi di capitale, ma sono molto mirati, sono per delle cose molto specifiche. Uno di questi investimenti, che invece è stato tipico perché si trattava di una piccola azienda italiana e poteva in teoria essere un salto nel buio, è stato l'investimento che Carlyle ha fatto in Moncler nel 2008. Acquista il 48% del capitale. Remo Ruffini, che aveva acquistato la Moncler, resta presidente, gestisce, fa un lavoro di ristrutturazione, e a quel punto la Carlyle vende con profitti molto buoni, perché da 400 milioni di euro di valutazione iniziale alla fine del 2012 si arriva a 1,2 miliardi. Ecco, ho con me ai microfoni di America 24 Remo Ruffini, che era qui a New York per la Fashion Week. Buongiorno Ruffini. Buongiorno, buongiorno a voi. Dov'è il miracolo? In tre anni triplicare l'investimento? Ma guarda, il miracolo credo che oggi il nostro lavoro sia avere un'italianità forte, essere italiani veramente, ma avere una visione molto internazionale. Proprio dai primi giorni, quando mi ricordo sono arrivati questi signori dall'America, 2007, fine 2007, inizio 2008, erano determinati e volevano investire in questa azienda, investire in Moncler, che è comunque una marca internazionale, una marca che già dal 2003-2004, quando io l'ho acquisita, era, l'obiettivo era quello di diventare una marca nel mondo, non avere una grande produzione in Italia, ma avere un grande futuro nell'esportazione. Continuiamo con l'intercalare musica, moda, canzone dell'anno, migliore canzone dell'anno, We Are Young, del gruppo Fun. Ecco, rieccoci con Ruffini. Beh, intanto le è piaciuta la canzone? Ma è vero che la musica e la moda sono legatissime? Ma sono due settori di grande creatività, credo, no? Creatività per il nostro settore è tutto, anche se nel nostro mondo, conosco meno la musica, ma conosco il nostro mondo, dobbiamo avere una grandissima qualità. È un po' come una canzone, no? Che va cantata tutti i giorni, è un po' come la nostra strategia che va aggiornata giornalmente. Dunque credo che sono due settori molto vicini, con una grande visione per il mondo, e anche la canzone italiana ha avuto grandi successi all'estero. Beh, intanto complimenti, devo dire, perché è stato un evento molto suggestivo. Vedere queste centinaia di persone tutte vestite, ecco, ci dica cosa avevano, le giacche a vento, erano tutti vestiti da sci con questi occhiali da sci. Questi super space, questi, ecco, come è venuta l'idea, come nasce una cosa, perché tutti quelli che erano in quella che sembrava la fossa dei leoni, perché noi eravamo sotto e poi intorno avevamo tutti questi modelli intorno. Come nasce un'idea di questo genere? Ma guarda, sempre da quando abbiamo fatto questa linea Grenoble, che è poi la città dove è nata Moncler nel 1952, Grenoble è la nostra linea sci, dunque la linea con un grande erice, con una grande tradizione, abbiamo detto dobbiamo sfilare a New York, no? Come dico, noi New York la vediamo come una delle città con la più forte energia, non solo perché i nostri investitori sono americani, ma perché comunque crediamo che qui c'è veramente energia, che per un marchio come noi, che vogliamo essere un marchio sportivo, andiamo a sciare, siamo sui campi da neve, però vogliamo che le nostre già che si mettono anche in città. Infatti mi ricordo la prima stagione, qui eravamo al Central Station di New York, poi l'anno scorso all'Ice Ring, quest'anno al Gotham Hall, giusto per dire che noi facciamo un prodotto da sci che si può mettere in città, si può mettere tutti i giorni, che deve dare grande sicurezza e grande qualità. Sempre Grammys, sempre domenica notte, Carrie Underwood, Blown Away, migliore canzone country western. Eccoci in studio con Remo Ruffini, presidente di Moncler, che ha attirato capitali americani in Italia. Allora, a voi è andata bene, ma i capitali americani sono sospettosi del nostro paese. Ma secondo lei perché? Cosa dovremmo fare per attirare questi capitali? Ma infatti, se, diciamo, gli americani non investono in Italia, è un paese difficile sotto quel punto di vista, bisogna essere trasparenti, come dico, vivere di internazionalità, no? Perché credo che un investitore americano abbia paura di un'azienda che investe solo sul mercato italiano, che subisce delle crisi molto forti. Ecco, ma intanto scusi, ci fa bene l'investimento americano, no? Perché adesso siamo in campagna elettorale, allora si sentono ogni tanto delle posizioni, ma basta, questi americani ci hanno scocciato, invece... la nostra posizione, almeno qui da New York ovviamente, ma per America 24, il Sole 24 Ore, è che la circolazione del capitale, delle idee, fa bene. No, fa benissimo. Carlyle ci ha dato grandissima mano, è entrato nel nostro capitale nel 2008. Carlyle credo che sia uno dei più grandi fondi private equity al mondo, ci ha dato una grande mano all'internazionalizzazione della nostra marca, e dunque grazie all'America, nel senso che un grande azienda, una grande società di private equity è una struttura internazionale enorme e ti dà veramente possibilità interessanti per creare valore all'estero. Exit Strategy, andrete in borsa? Ma speriamo, la borsa dà una grande forza a un marchio come noi, una grandissima visibilità, ci dà la possibilità di attrarre grandi risorse umane, e nel prossimo exit speriamo andare in borsa. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguitemi su Twitter, @MarioPlatero, ma scrivete su Twitter e scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno, beh, Grammys Award, quindi chiudiamo con un'altra canzone dell'altra notte, il miglior album dell'anno, il premio più prestigioso andato ai Mumford & Son, una band innovativa, super ritmata, chitarre acustiche, banjo, hanno vinto con Babel appunto il Grammy per miglior album dell'anno. Di Babel vi propongo I Will Wait. Well, I came home like a stone, and I fell heavy into your arms. These days of darkness, which we've known, will blow away with this new sun. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!